Incidenti nell'est, mentre oggi si apre la conferenza di Ginevra. Le speranze di successo non sono molte. Scambio di embrioni. C'è la conferma che è avvenuto. Forse a causa della somiglianza tra cognomi. È stata individuata la coppia dei genitori genetici. Non sono quelli che hanno presentato denuncia. Lo smaltimento della Costa Concordia. La soluzione più economica è la Turchia, dice il capo della Protezione Civile Gabrielli. 40 milioni contro i 200 chiesti da Civitavecchia. Ospite tra poco effetto giorno il ministro dell'Ambiente. All'Italia Etihad, difficoltà nella trattativa, ci sarebbe stato un improvviso stop da parte di Abu Dhabi, il problema riguarderebbe le responsabilità sulla gestione passata del vettore italiano. Ci sono dichiarazioni di un attimo fa del presidente della Lombardia, Roberto Maroni, che dice: ho sentito il ministro Lupi, a lui non risulta una rottura nella trattativa. Ripresa fragile, pareggio di bilancio nel 2016, così Padoan alle Camere che si preparano a votare sul documento di economia e finanza. Il giorno dopo le dimissioni dell'assessore al bilancio del Comune di Roma sale la tensione intorno alla giunta capitolina. Italia a Cannes con due donne, Alice Rohrwacher in corsa per la Palma d'Oro, Asia Argento in gara nella sezione Un Certain Regard. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Apriamo questa edizione di Effetto Giorno parlando di Ucraina. La situazione naturalmente sul terreno resta tesa. Oggi è stata la giornata della lunghissima diretta di Vladimir Putin, intervista classica che avviene ogni anno. Antonella Scott, è già finita tra l'altro? No, è ancora in corso, buongiorno. E con questa maratona Putin per ora almeno ruba la scena ai negoziati di Ginevra e dando la sua verità sulla crisi ucraina. E qual è la sua verità? Qual è la sua versione? Che cosa ha detto oggi? Intanto è una versione che non ha repliche, questo è questo classico che succede ogni anno, una lunga maratona televisiva in cui il presidente risponde per ore alle domande dei russi e quest'anno hanno detto in studio questo classico segna un nuovo record, sono 2 milioni le domande arrivate a Mosca un po' da tutte le parti della Russia, che quest'anno appunto è in festa. Infatti il primo collegamento è stato da Sebastopoli, perché da questa parte del mondo l'annessione della Crimea è una festa, cioè l'ingresso di questa nuova regione, nuovi cittadini, e mentre il mondo invece, da una parte, in ansia per le sorti dell'Ucraina, Putin si è detto convinto che la soluzione alla rivolta in atto nelle regioni orientali, come ricordavi nella notte scorsa ci sono stati nuovi disordini, 3 separatisti filorussi a Mariupol sono stati uccisi, per Putin è solo nel dialogo che il dialogo è dare una possibilità di scelta agli abitanti di queste terre è la sola soluzione, è con loro che il governo di Kiev, che secondo Putin ha ripetuto è illegittimo, è con loro che bisogna trovare un compromesso. All'Occidente il presidente russo dice che Mosca è stata come costretta ad arrivare ad annettersi la Crimea per rispondere all'espansione della NATO nell'Europa orientale, ha minacciato di aver avuto dal Consiglio della Federazione Russa il diritto di intervenire con la forza militare in Ucraina, un'opzione che si augura, che si tiene aperta, anche se si augura di non doverla usare. Poi c'è il coltello dalla parte del manico per Putin, il gas, a cui ha detto chiaramente i paesi europei secondo lui non possono, per loro è impossibile rinunciare. Io ti ringrazio Antonella Scott per questi aggiornamenti e saluto Ugo Tramballi, collega anche lui del Sole 24 Ore, inviato del Sole 24 Ore, per fare un punto proprio su Ginevra. Ugo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. I segnali quali sono su questa conferenza? Non ci sono segnali, per il momento non ci sono notizie, però il fatto stesso che Stati Uniti, Russia, Ucraina di Kiev e Unione Europea si incontrano è perché evidentemente ci sono cose da dire. Non credo che si organizzi un vertice di questo genere senza avere qualche cosa. Sarebbe a folle pensare che questo sia una specie di vertice, di trattativa, di negoziato a somma zero, cioè io vinco, tu perdi. È fatale che dovrà essere riconosciuta qualche una forma di unicità all'Ucraina, nel senso non si può nascondere il fatto che per come è l'Ucraina, per qual è la sua storia, una forma di neutralità in qualche modo, almeno per un certo numero di anni, dovrà essere ammessa. Quindi qualche speranza di successo, Ugo, c'è di questa conferenza? L'alternativa sarebbe l'esplosione della parte orientale dell'Ucraina, sarebbe l'annessione o comunque l'invasione russa, sarebbe la violazione di frontiere europee stabilite dagli accordi internazionali. Certo, c'è già stata l'annessione della Crimea, ma la Crimea è stata una specie di errore della storia, passarla all'Ucraina. Non dobbiamo credere che in questo momento c'è il coltello dalla parte del manico ce l'abbia la Russia. Forse Putin si illude di avere in mano il presente, nel senso che lui è determinato, probabilmente anche i russi sono determinati anche a un'azione militare, cosa che invece noi in Occidente non siamo affatto determinati, ammettiamocelo. Ma il futuro non è nelle mani di Putin. Putin governa un paese che è un'autocrazia, che non ha alcun appeal, cioè nessuno desidera allearsi con la Russia. Quando noi critichiamo giustamente l'allargamento della NATO a est, ci dobbiamo anche chiedere per quale motivo appena un paese dell'ex sfera sovietico, quantomeno vicino alle frontiere della Russia, ottiene un po' di autonomia, chiede automaticamente di partecipare alla NATO, mentre invece non risulta che nessuno, a parte la Bielorussia e forse il Kazakistan costretto, abbiano intenzione di avere accordi militari con la Russia, cioè questo vuol dire anche qualcosa. Grazie ad Ugo Tramballi per questa analisi. Allora, si parlava della questione delle forniture di gas. Dice Putin, è assolutamente irreale che l'Europa possa ridurre drasticamente le forniture. E ancora risponde il Presidente della Commissione Europea Barroso in una lettera a Putin: l'eventuale interruzione è causa di seria preoccupazione. E c'è un altro paese al quale soprattutto l'Italia si rifornisce, che va al voto proprio domani. Si tratta dell'Algeria. Urne aperte in Algeria per le presidenziali, grande favorito per il quarto mandato consecutivo è Abdelaziz Bouteflika al potere dal 99. Il paese appare stabile ma immobile, affidato a un uomo di 77 anni, sfinito da un ictus, che dovrebbe governare 33 milioni di persone, di cui la metà sotto i 30 anni. Ma quella della leadership non è incognita dell'Algeria. Questo per l'Italia è un paese strategico, fornisce un terzo del metano e attraverso la Tunisia è collegato dalla pipeline del Transmed, che appare un cordone ombelicale con la sponda sud. Se la crisi ucraina facesse saltare il progetto del gasdotto russo Stream, l'Algeria rappresenta l'alternativa a portata di mano per sfuggire, almeno in parte, alla dipendenza dal gas di Putin. Ma le cose stanno davvero così? Le riserve algerine sono in calo mentre aumentano i consumi interni e non è detto che lo sfruttamento dei nuovi giacimenti sarà sufficiente a compensare il declino di quelli vecchi. I mali dell'Algeria di oggi, dopo la fine del socialismo, appaiono molto simili a quelli antichi. Per questo il lungo addio del dinosauro Bouteflika è una scommessa sul futuro del paese, ma anche sul nostro. E così l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Noi passiamo all'Italia, iniziando dalla vicenda della Costa Concordia, dello smantellamento della Costa Concordia. Questa mattina il capo della Protezione Civile, il prefetto Gabrielli, dice la soluzione più economica è quella della Turchia. L'offerta è stata di 40 milioni contro i 200 chiesti da Civitavecchia. Come sapete si è molto discusso sul fatto che la Costa Concordia, il relitto della Costa Concordia, fosse o dovesse essere smantellato in Italia. Voglio parlare di questo col ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche se con questa sirena di sottofondo. Senta, ministro, secondo lei deve essere smantellata in Italia la Costa Concordia? Su questa vicenda sono molto determinato. La Concordia deve essere smantellata in Italia. La tragedia, lo ricordo, è avvenuta nel nostro mare. Noi abbiamo avuto vittime, danni ambientali, danni economici. Ora è giusto che si chiuda il cerchio. Dallo smaltimento della Concordia devono nascere in Italia, nel nostro paese, opportunità economiche e posti di lavoro. Non è possibile altra strada. E però, ministro, succede questo, che i costi dello smantellamento, del recupero e dello smantellamento sono a carico della Costa Crociere e degli assicuratori. Insomma, se questi hanno un'offerta di mercato che molto semplicemente gli costa un quarto di quello che può offrire l'Italia, come possiamo impedirgli di portare la Costa Concordia da un'altra parte? Ci sono anche degli aspetti ambientali di cui noi dobbiamo tenere conto. di cui dobbiamo tenere molto conto, e spostare una nave per un periodo, per un tragitto così lungo come la Turchia, è sicuramente più rischioso che invece un tragitto più breve. E sinceramente, essendo io il ministro dell'ambiente, mi sta a cuore la cura dell'ambiente stesso e del mare. Però come si può fare a convincerli sostanzialmente, a convincere di fatto un'azienda privata ad operare una scelta diversa? Si può costringere, per esempio, Civitavecchia ad abbassare il prezzo, tanto per dire. Ci mancherebbe altro. La Costa Concordia è di proprietà della Carnival. E ha il diritto di portarla dove vuole. Io dall'altra parte ho il diritto di assicurare al nostro paese che l'ambiente non venga di nuovo stuprato come è avvenuto nel caso della Concordia. E lei intravede questo rischio se la nave viene portata in Turchia? Io metterò, loro devono darci tutta la documentazione tecnica e noi dovremo esaminare quella documentazione tecnica con molta attenzione, e lo faremo. Quando si parte? Anche qui dipende molto dalla velocità con cui la Carnival deciderà e ci farà avere tutta la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazioni. Io ritengo che bisogna partire nel più breve tempo possibile. Avevamo preso l'impegno di portarla via prima dell'estate, mi piacerebbe rispettare quella data. Grazie a Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente. Buona giornata, ci torneremo su questo più avanti. Ospiteremo anche il presidente della Regione Toscana, Rossi, dove ci sono un paio di porti che erano candidati. La vicenda degli embrioni, finalmente lo sappiamo, abbiamo la conferma ufficiale, sono stati impiantati degli embrioni che sono di un'altra coppia. Sentiamo. Ora è ufficiale, lo scambio c'è stato. L'esame del DNA ha confermato l'incompatibilità genetica riscontrata presso il centro Sant'Anna della ASL Roma in 2 casi su 5. Dunque una donna porta in grembo 2 gemelli che, secondo alcune interpretazioni di giuristi, legalmente saranno suoi all'atto della nascita, ma geneticamente no, figli biologici della seconda coppia, cui invece l'intervento non è riuscito. L'errore, avvenuto all'ospedale Pertini di Roma il 4 dicembre, forse legato ad un caso di semiomonemia delle due donne, i cui cognomi hanno in comune l'iniziale 5 lettere 3 su 7. Le altre coppie coinvolte, tutte sottoposte al prelievo di ovociti la mattina del 4 dicembre, non sono invece interessate dallo scambio di provette. Sul caso la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta al momento contro ignoti dopo l'esposto della donna che si è sottoposta all'inseminazione artificiale con esito però negativo. Intanto all'ospedale Pertini, dopo la nomina di un nuovo responsabile della struttura della procreazione assistita, sono state sospese le prime visite per le fecondazioni riguardo a nuove coppie. Presentato dal Codacons su un esposto nei confronti del Pertini, l'associazione dei consumatori ipotizza l'omissione di atti d'ufficio, l'interruzione di pubblico servizio e lesioni personali alle coppie coinvolte per lo stress psicofisico subito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica adesso, si chiude il cerchio delle candidature. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, l'appuntamento più atteso è alle 16 quando Silvio Berlusconi presenterà nella nuova sede di Forza Italia a Piazza San Lorenzo e Lucina qui a Roma le candidature per le europee già decise nel PD e nel Movimento 5 Stelle, volti poco conosciuti, 30 donne, qualche big, Raffaele Fitto al sud, Antonio Tajani e Alessandra Mussolini al centro e Ilenia Citino, ex tronista in TV di Uomini e Donne. Tra gli imprenditori Giampiero Samorilli, leader dei Moderati Rivoluzioni, nel nord-est Giovanni Toti, ma anche Alessandro Cecchi Paone, mentre è escluso Claudio Scajola. Riconfermati gli uscenti, incluso l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella. Ma ci sono, Simone, novità in tutti gli schieramenti. Marco Tardelli, ex tecnico dell'Irlanda, candidato nel PD. Davide Vannoni, inventore del metodo Stamina, presenta in 5 circoscrizioni il movimento politico Io Cambio. Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso in una rapina dei terroristi nel 79, è nelle liste di Fratelli d'Italia. Polemiche poi per la candidatura dei ministri del governo Renzi, in quota nuovo centrodestra come Lupi e Lorenzin, ma anche di Scelta Civica come Stefania Giannini. Scioglie la riserva Giuseppe Scopelliti, nuovo centrodestra che nei giorni scorsi ha annunciato le dimissioni da governatore della Calabria dopo la condanna in primo grado a 6 anni per falsificazione dei bilanci, e per la Lega spicca il nome del sindaco di Verona Flavio Tosi e del segretario Matteo Salvini. A te, Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. E poi c'è tutto il tema della politica economica ancora di cui parlare, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scambio di embrioni, c'è la conferma che è avvenuto forse a causa della somiglianza tra cognomi. Ucraina, Putin avverte, spero di non dover usare la forza. Ancora scontri e incidenti nell'est, mentre oggi si apre la conferenza di Ginevra. Lo smaltimento della Costa Concordia, soluzione più economica in Turchia, dice il capo della protezione civile Gabrielli. Il ministro dell'ambiente Galletti a Radio 24 dice: farò di tutto perché questo avvenga invece in Italia. Abbiamo sentito poco fa, insomma, che iniziano probabilmente già in parte le partenze per le vacanze di Pasqua. Ebbene, a queste partenze, ai problemi di traffico, si associa un grande classico, ossia i rincari. Ponte Pasquale alle porte e rincari dietro l'angolo, come da copione, solo che questa volta i ponti saranno tre, uno via l'altro, e i conti bisognerà farli alla fine. Conti che riguardano i carburanti. Le accise da una parte e i rialzi delle compagnie dall'altra porteranno il pieno ad essere più costoso, anche fino a 13-15 euro. Gli aumenti scatteranno con la giornata di sabato, giusto in tempo. 0,24 centesimi di euro di accise previsti nell'agosto del 2013 come copertura finanziaria per il decreto del fare. L'aumento, che dovrebbe rendere allo Stato 75 milioni, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre, dopodiché andrà in pensione. Ritocchi anche da parte delle compagnie. Eni ha rivisto al rialzo i prezzi dei carburanti di 1,5 centesimi di euro al litro per la benzina e di 0,5 centesimi di euro al litro sul diesel. Ad Eni si sono subito accodate anche le altre compagnie, con aumenti più o meno variabili: Shell, Esso, IP, Kuwait e Tamoil. Imbizzarrite le associazioni dei consumatori, che però possono contare sul fatto che, grazie all'enologo e alle pompe della grande distribuzione, i prezzi dei carburanti si sono notevolmente abbassati nell'ultimo anno e mezzo, rimanendo in media più bassi degli anni precedenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono segnali di ripresa, ma anche nel 2014 il gap rimarrà molto negativo, la ripresa economica ancora fragile e la situazione del mercato del lavoro rimane difficile. Così il ministro Piercarlo Padoan alle Camere, che si stanno preparando a votare sul documento di economia e finanza. Così il ministro sui conti pubblici. In presenza di importanti riforme strutturali è possibile deviare temporaneamente dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo. La deviazione temporanea è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit-PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo di medio periodo entro il periodo coperto dal programma di stabilità. Nel corso del 2014 la riduzione del saldo strutturale sarà di 0,2 punti percentuali di PIL, in luogo della riduzione di 0,5 punti percentuali richiesta dal patto di stabilità e crescita. Così il ministro Padoan. E noi cambiamo decisamente argomento. Saluto Franco D'Assisti, buongiorno, come stai? Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per parlare di belle notizie, perché ci sono in gara non solo due film italiani a Cannes, seppure in due sezioni diverse, no? Una in quella principale e l'altra in Certain Regard, ma sono tra l'altro due donne. Sì, sì, infatti direi che è proprio la nota... Chiaramente che balza subito all'occhio questa della presenza delle registe dell'Italia del cinema femminile in questa edizione del Festival di Cannes che si apre il 14 maggio. Da una parte, come hai detto giustamente tu, Asi Argento nel Certain Regard, la sezione diciamo un po' più fra virgolette sperimentale, anche se comunque fatta anche in quel caso di registi e attori affermati del Festival di Cannes, l'altra invece Alice Rohrwacher, sorella di Alba, dell'attrice Alba Rohrwacher, che con Le Meraviglie è in concorso per la Palma d'Oro nella sezione principale del Festival di Cannes, un grandissimo riconoscimento, solo l'ingresso in questi 18 nomi che si contenderanno la Palma d'Oro, dato a una regista ancora giovane, che porta un film che si intitola Le Meraviglie. È una storia molto femminile, ambientata in Toscana, la storia di un abbandono di vita di campagna da parte di una giovane che vive con le sorelle, con il padre, finché nella sua vita non arriverà un ragazzino di nome Martin, che sconvolgerà un po' il quadretto familiare in essere. Devo dire tra l'altro che gli antagonisti, competitor, diciamo, di Alice Rohrwacher sono tanta roba, perché abbiamo nomi come Ken Loach, come Mike Leigh, come Tommy Lee Jones alla regia di The Homesman, come Michel Aznavichus con The Search, lo ricorderete per The Artist, Jean-Luc Godard, niente meno, il ritorno di Jean-Luc Godard in concorso a Cannes, Atom e Goyan, i fratelli Dardenne, David Cronenberg, Olivier Assayas, insomma, c'è molto materiale con cui competere, ma anche da cui imparare. Del resto, devo dire che l'altra metà del tabellone è fatta invece proprio di nomi di outsider, quindi c'è proprio stata una decisione, una tendenza evidentemente in questa selezione nel dividere un po' i grandi nomi affermati, addirittura nomi da storia del cinema come Godard, con nomi invece di outsider che però potrebbero trovare proprio in questo festival la loro consacrazione. Vedremo come andrà, tra l'altro nell'anno nel quale l'Italia si è beccata l'Oscar come miglior film straniero per La grande bellezza. Grazie a Franco D'Assisti, buona giornata Franco. Buona giornata a voi, ci risentiamo sabato poi alla Rosa Purpure. Ottimo. La grande bellezza, ambientato a Roma, Roma che in queste ore sta vivendo grandissime difficoltà. Ieri si è dimesso l'assessore al bilancio per contrasti a quanto pare con il sindaco. Saluto Angelo Rughetti, sottosegretario della Funzione Pubblica, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, la prima domanda che le devo fare, se vuole, è una... anche una domanda politica, perché visto quello che sta succedendo vorrei capire se secondo lei, da quel che vede, la Giunta Marino potrebbe addirittura essere a rischio. Ma no, io non penso che la Giunta Marino sia a rischio, penso che ci siano state delle diverse vedute rispetto alla soluzione dei problemi, ed è giusto che il sindaco si assuma la responsabilità, essendo stato il primo cittadino ad essere eletto, e quindi è colui che poi ne è responsabile sia amministrativamente che politicamente. Senta, lo scontro, da quel che abbiamo capito, da quel che abbiamo letto anche sui quotidiani, si è concentrato su questo. La dimissionaria assessore al bilancio, Daniela Morgante, aveva proposto una manovra fatta essenzialmente di tagli di spesa, mentre Marino sarebbe più orientato verso un aumento delle tasse per i romani, per coprire i buchi di bilancio. Insomma, vorrei capire come la vedete come governo. Ma guardi, io questo penso che le motivazioni siano forse anche più complesse, perché bisogna vedere qual era anche il clima interno alla Giunta, i rapporti con gli altri assessori, quindi diciamo, non possiamo tirare le somme rispetto a delle motivazioni che non conosciamo. Penso che sia corretto che l'amministrazione romana, come sta facendo il governo a livello nazionale, si interroghi su quali siano le migliori soluzioni per far uscire la città di Roma da una situazione di emergenza continua. E io penso che sia da questo punto di vista corretto vedere da un lato una ristrutturazione della macchina amministrativa e della spesa pubblica per ridurre, se ce ne sono, sprechi, per ridurre inefficienze e per ridurre quindi il costo. Dall'altro è chiaro che se questo non dovesse essere sufficiente o dovesse andare ad intaccare l'erogazione di servizi essenziali, bisogna fare una manovra anche sul lato delle entrate. Non la vedrei dal punto di vista ideologico, la vedrei nei fatti. Tutto ciò che si risparmia è dovuto, è la prima cosa che va fatta. Se ciò non basta, è chiaro che bisognerà chiedere un sacrificio. Però prima di chiedere il sacrificio ai romani bisogna aver fatto il più possibile, il massimo, per ridurre la spesa. Questo penso che sia il criterio di fondo. I margini ci sono, da quel che vediamo, no? Ma sì, io penso che i margini ci siano tutte le amministrazioni, bisogna avere la pazienza, il coraggio e la forza per portarle avanti. Proprio oggi leggevo di un risultato brillante della Giunta Zingaretti, che con l'avvio della centrale unica di acquisto in sanità ha risparmiato 278 milioni di euro su base annua. Quindi anche lì penso che, diciamo, non sarà stato facile, no? Perché comunque c'erano delle situazioni già magari consolidate, ma l'intervento del Presidente, la forza e il coraggio l'hanno portato avanti. È stata inadeguata la gestione di Roma fino adesso, secondo lei? No, non penso sia stato inadeguato. Il carico lasciato dalla precedente gestione è un carico francamente pesantissimo. Io non penso che ci siano state altre amministrazioni che hanno dovuto fare i conti con uno squilibrio di parte corrente di 800 milioni di euro l'anno, con un debito così grande. Quindi diciamo, la situazione merita una risposta molto forte, che deve venire non soltanto dal sindaco, deve venire dalla giunta, dal consiglio e dai partiti che sostengono l'amministrazione. C'è un rischio di commissariamento della capitale ed è possibile, tra l'altro? No, il rischio commissariamento non c'è, perché il Comune di Roma ha tutti i tempi ancora per poter approvare il bilancio, applicare le regole che sono nel decreto legge che è in via di conversione al Senato, quindi ha tutto in regola per poter continuare ad andare avanti. Io mi auguro che non ci sarà bisogno di nessun commissariamento, ma che si proceda nella ordinaria amministrazione dentro una situazione che è molto straordinaria, questo bisogna dire. Senta, descrivono, ultima domanda che le faccio, un Presidente del Consiglio piuttosto arrabbiato con Marino. Ma io non lo so, non ho parlato con il Presidente del Consiglio su questo punto. Penso che il Presidente del Consiglio abbia a cuore le sorti della capitale della Repubblica Italiana e dei cittadini che ci abitano. È una città importante, ogni giorno a Roma arrivano 400.000 persone, è come se la città di Bologna ogni giorno si spostasse dentro la nostra capitale. Bisogna saper dare una risposta che sia strutturale, sia strutturata e non sia figlia dell'emotività. Capisco che adesso c'è una situazione difficile legata alle dimissioni di Daniela Morgante, che oltretutto è una persona, diciamo, molto qualificata e molto preparata. Bisogna adesso però rimboccarsi le maniche e dare delle risposte importanti. Grazie Angelo Rughetti, sottosegretario alla funzione pubblica, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sono stati individuati i genitori biologici dei gemelli frutto dello scambio di embrioni al Pertini di Roma, sono stati anche avvertiti dalle autorità sanitarie, la notizia di pochi istanti fa. Sull'Ucraina Putin avverte: spero di non dover usare la forza, ci sono ancora scontri e incidenti nell'est. Lo smaltimento della Costa Concordia, la soluzione più economica è la Turchia, dice il capo della protezione civile Gabrielli. Replica il ministro Galletti dell'ambiente, intervenuto a Radio 24: deve essere smantellata in Italia, dice. All'Italia e TAD ci sarebbero difficoltà nella trattativa e un improvviso stop da parte di Abu Dhabi. Il problema riguarderebbe le responsabilità sulla gestione passata del vettore italiano. Il presidente della Lombardia Maroni dice: ho sentito lupi, e lui smentisce. È il momento della borsa. Borse in diretta. Beh, ieri era andata troppo bene perché si continuasse anche oggi, con un guadagno di oltre il 3,5% sul FTSE MIB, meno 0,46% oggi, mentre il FTSE All-Share cede lo 0,39%. In sostanziale parità le altre piazze finanziarie europee. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Più o meno è questo il punto, no? Era andata, sì, troppo bene ieri. È andata bene ieri, oggi non ci sono spunti per comprare, c'è anche prudenza in vista del lungo ponte pasquale, con i mercati che resteranno chiusi fino a martedì prossimo. Anche la pubblicazione poco fa da parte di Morgan Stanley di risultati migliori delle attese è stata accolta oggi con indifferenza dai listini, dove si registrano più che altro correzioni rispetto ai forti movimenti di ieri. Scendono i titoli che avevano guadagnato di più e viceversa. Non corregge invece la Popolare di Milano, più 4,42%. Sì, la Popolare di Milano è ancora in buon rialzo, che si aggiunge al più 6,5% di ieri, questo sulla scia della conferma che l'aumento di capitale fino a 500 milioni andrà avanti anche a seguito della mancata approvazione della proposta di revisione della governance della Banca Popolare. A proposito di aumenti di capitale, so che già qualcuno titolerà venerdì di passione, c'è anche il Monte dei Paschi, no? Sì, il titolo comunque è in rialzo, fa più 2,2%, che in vista del Consiglio di Amministrazione di domani, appunto sull'aumento di capitale che potrebbe salire fino a 5 miliardi, 2 miliardi in più rispetto ai 3 miliardi già deliberati. Comunque sul titolo c'è un ribalzo tecnico dopo le perdite dei giorni scorsi. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 15.000 per 14 posti da vigile. Succede a Milano per il concorso, appunto, che assegna questi posti a tempo indeterminato di agente di polizia municipale. Data è quella del prossimo 29 aprile. Il comune ha dovuto affittare il palazzetto dello sport, il forum di Assago, costo 39.000 euro. Marco Granelli, assessore alla sicurezza e polizia locale, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Certamente c'è una grande domanda di lavoro, questo è un dato che sappiamo e abbiamo molti indicatori che ce lo dicono. Noi stiamo facendo una politica occupazionale al massimo, sostituendo tutti quelli che vanno in pensione, quindi in rapporto di uno a uno. Poi questo concorso stilerà una graduatoria che ha una durata di 3 anni. Nei prossimi anni probabilmente avremo ulteriori assunzioni. Ve l'aspettavate questa adesione? Un numero ampio sì, devo dire che è molto alto questo, quindi va sopra le nostre aspettative sicuramente. È appetibile, penso, perché sia comunque un posto di lavoro a tempo indeterminato in un'amministrazione locale, quindi ha le caratteristiche di stabilità. Avete dovuto affittare il forum di Assago, è stata una scelta obbligata? Sì, obbligata nel senso che non avevamo a disposizione sale così grandi, quindi abbiamo dovuto attivarci in questo senso. E torniamo adesso a parlare di economia. Questa mattina ospite a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli, è stato il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, che ha parlato dell'ipotesi della creazione di una bad bank, ossia una banca, per così dire, nella quale mettere i crediti in sofferenza delle banche, che sono naturalmente un grande problema per il settore bancario. Sentiamo dunque che cosa ha detto Patuelli. Vorrei che fosse un po' più specifico sulla bad bank di Stato, cioè promossa dal governo. Sarebbe salutare o no? Io penso che sarebbe utile, ma promossa dal governo che ci dovrebbe mettere, come negli altri paesi dell'Occidente, qualche risorsa o qualche incentivo fiscale. La cosa che bisogna evitare è realizzare una bad bank carrozzone o una costrizione per altri, che sia una sovrastruttura rispetto alle strutture già esistenti. Così dunque Patuelli, intervenuto questa mattina a Mix 24. Nel frattempo vi diamo conto delle nuove dichiarazioni che stanno arrivando da Vladimir Putin. Durante questa conferenza stampa, della quale vi abbiamo raccontato all'inizio della trasmissione e che sta evidentemente continuando, una conferenza stampa lunghissima, la cosa interessante degli ultimi minuti è il fatto che Edward Snowden, la talpa, il cosiddetto Datagate, in collegamento internet si è collegato con la maratona televisiva di Putin e gli ha fatto una domanda proprio a proposito del cosiddetto Datagate. Putin ha risposto: qui non facciamo intercettazioni di massa. Veniamo sempre ai temi economici e sempre da Mix 24. Questa mattina è intervenuto il senatore del Partito Democratico Massimo Mucchetti per parlare di nomine. È difficile capire il caso di Finmeccanica. Pansa era al primo mandato, il CDA aveva appena approvato con lode il piano di investimenti. Allora una scelta politica e basta. E lei coglie questo fatto. Forse può essere che Alessandro Pansa non avesse grandi padrini politici in paradiso. Senta, e quanto alle presidenti, se è vero, c'è una grande novità che sono donne, e questo è positivo, ma sono donne che hanno dimostrato valore, secondo lei? E il curriculum, diciamo così, in alcuni casi non è dei più adeguati alla carica che andranno a ricoprire, però bisogna dare il tempo al tempo e misurare le persone sui fatti. Vabbè, credo che sì. Voglio dire, di donne magari anche più insomma, che avevano fatto di più nella loro vita precedente dal punto di vista professionale ce ne sarebbero state, però va bene così. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Allora, come l'abbiamo chiamata proprio per queste parole del capo della Protezione Civile, Gabrielli, delle quali abbiamo parlato all'inizio, ne abbiamo parlato anche col ministro Galletti, dice Gabrielli, la soluzione più economica per smaltire la Costa Concordia arriva dalla Turchia. 40 milioni di euro contro i 200 chiesti da Civitavecchia. Tra l'altro erano in ballo per lo smaltimento anche dei porti toscani, oltre naturalmente al fatto che la Costa Concordia è nel vostro territorio. Vorrei capire come giudica Rossi queste parole di Gabrielli. Ma, poi dovranno essere ovviamente gli elementi più tecnici. Io credo che l'aspetto prioritario deve essere la valutazione dell'impatto ambientale dell'operazione, e questo richiede anche che sia ben valutato il progetto che ci verrà presentato sotto il profilo tecnico. Prendo atto che la Turchia è molto lontana, costa poco, e abbiamo visto anche girare su YouTube delle rappresentazioni, forse non sarà quello il luogo dove si intende smaltire Costa Concordia, ma insomma, non proprio rispettose dell'ambiente, abbiamo visto navi che vengono spiaggiate prendendo la rincorsa dal largo. Qui abbiamo il compito di fare invece una cosa che sia ambientalmente e socialmente rispettosa dei criteri più avanzati, sia rispettosa dell'ambiente e rispettosa anche dei diritti dei lavoratori. Se portarla fuori dall'Italia fa correre questi rischi, e ancor di più portarla in Turchia, io penso che è giusto che si valuti allora meglio le due ipotesi, che sono Genova e Piombino, e che mi sembra dal punto di vista economico hanno lo stesso valore. Io ho sempre detto che se saremo pronti per quando la nave verrà trasportata, è giusto che sia Piombino la sede naturale, anche perché per portarla a Genova occorrono 4-5 giorni, e a Piombino ci si porta in un giorno solo. Chiunque può capire che trascinare un relitto in mare, insomma, non è proprio un'operazione semplice. Il porto di Piombino, da questo punto di vista, va attrezzato. Come è messo dal punto di vista dei tempi? Entro quanto può essere pronto? A dicembre, mi dicono, io sono una sorta di super commissario di questa vicenda, anche ieri sera venivo informato dall'autorità portuale che entro settembre ci sono le condizioni per far entrare la nave dentro il porto. Se i lavori andranno avanti a questo ritmo molto accelerato come stanno andando avanti, si lavora anche di notte. In ogni caso il porto servirà per tante altre cose che sono quelle dello sviluppo industriale, di un centro comunque di rottamazione che lì vogliamo fare, e quindi sono investimenti comunque ben fatti. Io sono sereno, ho interesse come Presidente della Regione Toscana che la nave sia portata via dal Giglio, sia portata via nelle migliori condizioni di sicurezza e di impatto ambientale, e poi naturalmente che la nave sia smaltita nel nostro paese mi sembra più che ragionevole, e se saremo pronti a parità di costi non vedo perché non si deve fare nel porto più vicino, che appunto è Piombino. A parità di costi, naturalmente, rispetto ad un altro porto italiano. È quello che ha anche dichiarato Gabrielli, cioè sì. Piombino e Genova valgono 80 milioni. E però se ambientalmente invece l'operazione fosse fattibile, come dire, il trasporto in Turchia, vi opporrete comunque? Ma io non entro nel merito di valutazioni sì. tecniche particolari. Sicuramente facciamo un paragone con una cosa che ci è nota, ad esempio il trasporto di un rottame, di un'auto incidentata che non può viaggiare sulla strada. Non mi pare un trasporto molto sicuro ed è sulla strada. È evidente che si cerca di portare un'auto rottamata, un'auto, un relitto d'auto dal carrozziere più vicino, insomma, dal meccanico più vicino. Lo dice anche il codice della navigazione, chiunque può intuire che una navigazione troppo lunga di questo relitto alla fine qualche problema può provocarlo. Quindi questa mi sembra una delle ragioni forti che depongono per il fatto che si lavori in Italia e che si lavori nel porto più vicino se sarà pronto. Io ho sempre detto che se non saremo pronti prenderemo atto di altre soluzioni, ma quello che sta emergendo è che i due porti papabili costano uguale, Piombino e Genova, Piombino è vicina, e se

Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Vi ricordo i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it. Mi trovate su Twitter, se volete, Simone Spezia. C'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. I ringraziamenti, Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione. Come sempre, tutta la redazione di Radio 24. La trasmissione torna domani alle 13. Noi invece ci risentiamo tra poco, tra pochissimo, con GR24.